Disdegno del mondo. Lasciar vorria lo mondo e Dio servire e dipartirmi d'ogne vanitate, però che veggio crescere e salire mattezza e villania e falsitate, ed ancor senno e cortesia morire e lo fin pregio e tutta la bontate. Un Dio marito non vorria né sire né stare al mondo per mia volontate. Membrandomi cognon di mal s'adorna, di ciascadun son forte disdegnosa, e verso Dio la mia persona torna. Lo padre mio mi fa stare pensosa, ch'a riservire a Cristo mi distorna, non saccio a cui mi vol dar per isposa. Compiuta donzella,